È mercoledì 18 aprile, intanto uno sguardo ai titoli d'apertura. C'è chi sceglie, come il Sole 24 Ore, ancora il tema casa e dunque l'IMU. Casa, quanto costa il nuovo catasto? Questo è il titolo di apertura. Poi il vertice politico di ieri, Monti con ABC, Alfano, Bersani e Casini, e la questione delle frequenze TV. Questo è il tema di apertura di molti giornali. Per il Corriere della Sera, l'asta sulle TV agita il vertice. Per Repubblica, frequenze TV, il PDL minaccia Monti. Per La Stampa, un caso TV sul tavolo di Monti. Per Il Messaggero, frequenze TV, no del PDL. L'Unità, PDL all'asta. Si gioca su questo titolo. Il Manifesto, Silvio c'è, tutti contro tutti, l'asta delle frequenze televisive fa saltare i nervi al conflitto di interesse. C'è chi sceglie invece la Lega, il tesoro della Lega, questo è il titolo d'apertura del giornale. Il Fatto Quotidiano invece, lingotti d'oro, diamanti, ville, vacanze gratis, politica SPA, che affarone. Per il Secolo XIX Belsito restituisce l'oro, ma ho lasciato per ultimo il titolo d'apertura di Libero perché da qui voglio partire. Ragazzi, questa vi metterà di buon umore, eh? Il Parlamento butta milioni, si fanno l'agenda in pelle di contribuente. Efficace anche, molto efficace come titolo. Libero spara in prima pagina. Che cosa? Intanto c'è la riproposizione di un bando che è stato pubblicato ieri a pagina 31 del Corriere della Sera, dice Libero. Viene messo in gigantografia, è un bando, un estratto di bando di gara del Senato, pubblicato dunque in Gazzetta Ufficiale, che recita così: il bando relativo alla procedura aperta da giudicare con il criterio del prezzo più basso per l'affidamento in appalto per un periodo di 2 anni, rinnovabile per ulteriori 2, della fornitura di agende da tavolo e agende tascabili per il Senato della Repubblica con un valore stimato dell'appalto di 950.000 euro. Offerte che devono pervenire entro le ore 15 di lunedì 28 maggio 2012 secondo le modalità eccetera eccetera. Un estratto di bando di gara. Ed eccolo qui allora con editoriale del direttore Maurizio Belpietro. Mentre il governo usa la mano pesante nei confronti di chiunque adotti misure per difendersi dalla voracità del fisco, il palazzo ne usa una leggerissima, anzi di piuma, coi membri della casta. Altro che spending review, come pomposamente è stata chiamata dal premier la revisione della spesa pubblica. Nelle sacre stanze del Parlamento tutto continua come prima, la festa è finita ma solo per gli italiani, mentre nulla cambia per i sacri eletti e i loro valletti. Ed eccolo qui allora il bando di gara per acquisire le agende al Senato. Il titolo, ripeto, efficace, fanno le agende in pelle di contribuente. Ogni deputato avrà più di 50 rubriche, fino a 70 per i senatori. L'articolo di appoggio che racconta questa vicenda di Tommaso Montesano, già alla Camera avevano fatto un bando del valore per 3 anni di 3.015.000 euro. 3.015.000 euro per un totale di 32.800 agende, una media di 52 agende a deputato. Ora il valore del bando al Senato di 950.000 euro per un totale di 5.200 agende da tavolo, 16.800 agende tascabili, tutto per 315 senatori, quindi una media di 70 agende a senatore. Funziona così. Leggete pagina 3 di Libero e vedrete un po' questo spreco. È uno spreco, si può dire, senza essere smentiti, ma sì, è uno spreco. A proposito di sprechi, magari l'iniziativa è lodevole, non lo so, non mi interessa, non è tanto questo il punto, ma sentite che cosa racconta pagina 9 La Stampa. È una storia tutta italiana, il referendum dei record, 25 anni dalle firme al voto. Nella regione Piemonte, cari piemontesi, andrete a votare tra poco. Andrete a votare una cosa che solo in Piemonte avrete, un referendum. Il 3 giugno è stata decisa questa data. Riguarda la caccia. Antonella Mariotti racconta questa storia. 25 anni, un quarto di secolo, tanto il Piemonte ha aspettato per votare il suo referendum contro la caccia, un tempo enorme. E sapete quanto saranno i costi di tutto questo e di questi tempi? 22 milioni di euro. Certo, la regione avrebbe potuto contenere le spese abbinando la consultazione alle amministrative del 6 e 7 maggio, ma la giunta del leghista Cota ha indicato un'altra data, il 3 giugno. E poiché nelle casse regionali 22 milioni di euro non ci sono, la regione ha acceso un mutuo. Cioè, per fare questo referendum, la regione ha dovuto accendere un mutuo, perché costerà 22 milioni di euro. Prima di estinguere questo mutuo passeranno altri anni. Sì, ma di che referendum si tratta? Eccolo qua, la storia di questa vicenda paradossale rappresenta il pachiderma burocratico tricolore. Passa attraverso ricorsi della regione contro il comitato referendario, che è formato dalla Lega Abolizione Caccia, da Pro Natura, dal WWF, di controricorsi al TAR degli anticaccia. Il tutto si è concluso dopo 25 anni. 25 anni. Nel novembre 2010, con sentenza della Corte d'Appello di Torino a favore dei referendari, e dunque adesso è stata stabilita la data. Il referendum chiederà di, udite udite, vietare la caccia la domenica sui terreni innevati, di ridurre da 29 a 4 le specie cacciabili e ridurre anche le attività delle aziende faunistiche e venatorie. Quattro domande, ma un solo quesito referendario. Per arrivare a questo ci sono voluti 25 anni di carte bollate, corsi, controricorsi, i referendari contro la regione contro i referendari, tutti contro tutti, alla fine hanno vinto coloro che hanno promosso il referendum. È la democrazia, bellezza. Cacciate 22 milioni di euro, cara Regione Piemonte, non avete i soldi, accendete un mutuo. Questo referendum fondamentale sicuramente andrà fatto, il 3 giugno si andrà a votare. Il referendum dei record, 25 anni dalle firme al voto. Pagina 9 della Stampa e ci sentiamo tra 6 minuti. 24 mattino. Le 7.33 minuti, ieri allora il Premier Monti ha visto Alfano, Bersani e Casini, leader dei tre partiti di maggioranza, il vertice con ABC. Questa volta non circolano foto su Twitter fatte da Casini, il suo entourage, stile siamo tutti qui al Braccobaldo Show, tutti allegri, sorridenti. Fanno notare i giornali che questa volta il vertice è stato alquanto teso, soprattutto per la questione delle frequenze TV. Tra poco vedremo. I titoli sono così, Tensione sulle TV, intesa sulla crescita. Questo è a pagina 2 del Sole 24 Ore. Oppure sul Corriere della Sera, sempre a pagina 2. Vertice teso, Monti leader, Bersani Alfano in difficoltà. E sia Repubblica che il Corriere della Sera fanno effettivamente notare che foto di questo vertice su Twitter questa volta non ne circolavano. Che cosa ha fatto intesire soprattutto la situazione? La questione delle frequenze TV. Prima però partirei dal tema invece crescita. E pare che Passera, il ministro, abbia fatto vedere 40 slide, 40 diapositive dal titolo Agenda per la crescita sostenibile, scrive Francesco Bei nella retroscena pagina 3 di Repubblica. Una dopo l'altra si susseguono le slide che parlano di competitività delle imprese, crescita dimensionale, riforma degli incentivi, credito d'imposta per le aziende che puntano sull'innovazione tecnologica, strategia per l'internazionalizzazione, l'attrazione degli investimenti diretti in Italia. Insomma, questi sarebbero i punti dell'agenda per rilanciare la crescita dell'Italia. Ovviamente grandi capitoli, ancora non si è entrati nei dettagli. Quello che però ha frenato un po' questa voglia di vedersi e di voglia di trovare un'intesa forte per il rilancio del paese è la questione delle frequenze TV. Allora, sapete che la notizia ormai è certa, il governo ha deciso di fermare il beauty contest con il quale il governo precedente, il governo Berlusconi, aveva deciso di assegnare le frequenze TV. Con un emendamento invece al decreto sulla delega fiscale il governo Monti ha deciso che l'assegnazione delle frequenze radio, per la verità, impone una svolta. Le nuove frequenze disponibili dovranno essere valorizzate economicamente attraverso un'asta. e dunque non più il beauty contest, cioè una sorta di concorso di bellezza, cioè nel quale potevano partecipare delle società, e poi si sa, c'è la Rai, c'è Mediaset e poco altro, che hanno dei consolidati sviluppi già nel settore, quindi potevano portare le proprie referenze, diciamo così. E invece questa volta si è deciso di andare all'asta. Questo ha fatto infuriare il Popolo della Libertà. Secondo il Corriere della Sera, pagina 3, Berlusconi ha definito una pugnalata questa decisione del governo Monti. Sull'asta per l'assegnazione delle frequenze, scrive Antonella Baccaro a pagina 3 del Corriere, inserita appunto dal governo in un emendamento al decreto semplificazione fiscale, il PDL è passato dall'opposizione nello spazio di una notte. Il tempo per l'ex ministro Romani, che si era espresso favorevolmente in un'intervista al Corriere, di accorgersi che il testo approdato in Commissione Finanze il giorno dopo non era quello concordato con il governo. Eccolo qui l'accusa di dire: avete fatto un accordo, caro Monti, con il PD sotterraneo, e questa è una pugnalata. Tanto che, secondo il Giornale, addirittura a pagina 4, Berlusconi lancia l'allarme: sono veleni da campagna elettorale. E anche nel retroscena, pagina 2 del Corriere della Sera, di Paola Di Caro, ormai c'è un clima in Parlamento che ha preceduto l'incontro tra i segretari di partito e il Premier e un nutrito pezzo di governo, che per tutta la giornata ieri faceva segnare facce scure di chi nei capannelli alla Camera e al Senato confabulava sul voto a ottobre, perché è chiaro che lì andiamo a finire, i partiti non reggono più e Monti non ha più niente da dare. Ecco, questo è il clima dal vertice di un 15 giorni fa, dove sembravano tutti contenti, felici, fiducia a Monti, eccetera. Nel vertice di ieri, tensione, la questione delle TV in primo piano fa suscitare malumori, mal di pancia, per usare un eufemismo, all'interno del Popolo della Libertà, e dunque si parla esplicitamente di voto a ottobre. Anche per Repubblica, Berlusconi: sono 24 ore che tempesta di telefonate, il Premier Monti, il Cavaliere ce l'ha con tutti, per la verità ce l'ha anche con Gianni Letta, a cui aveva chiesto il compito di supervisionare la trattativa, invece tutto è andato storto e dovrà occuparsene personalmente nel pranzo di domani che farà con il Premier Monti e il sottosegretario Catricalà. Anche se Monti ha già detto chiaro e tondo che non intende fare marcia indietro sulla questione dell'asta delle TV, anche perché, questa frase attribuita al Premier, l'asta la dobbiamo fare per forza, è la normativa europea che ce lo chiede. Allora, su questo vertice dunque pende come una spada di Damocle la questione delle frequenze TV. Ma certo, se uno scorre i giornali, è un momento in cui i partiti politici segnano un livello di apprezzamento da parte di vista del pubblico, da parte di vista dell'opinione pubblica, da parte di vista dell'elettore italiano medio, a livelli infimi, quasi si dice a livelli post-Tangentopoli. Ancora pesa la questione dei rimborsi elettorali. Ieri che cosa è successo alla Camera? È successo che con la firma di 74 parlamentari, soprattutto gran parte del gruppo della Lega, ma anche di Grande Sud e alcuni di ex Forza Italia, hanno bloccato l'iter veloce della legge di riforma dei rimborsi ai partiti proposta da Alfano, Bersani e Casini, che tra l'altro istituiva la speciale commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti politici. Uno sgambetto dunque della Lega, così titola a pagina 5 il Corriere della Sera. In tutto questo marasma, in tutte le inchieste che vedremo anche tra poco, a gioco facile Beppe Grillo, che ieri, sapete che cosa ha detto? La cosa più pacata che ha detto: contro i partiti faremo un piccolo processo di Norimberga, li accuso di avere portato alla fame il paese. Ecco, sta di fatto che è stata bocciata la corsia veloce per fare la legge di riforma dei rimborsi pubblici ai partiti, partiti che dicono, no, l'avete sentito due giorni fa, sempre Alfano, Bersani e Casini, tagliare i rimborsi ai partiti sarebbe una cosa, un errore drammatico, drammatico. Oggi vi segnalo su questo tema due articoli, Jacopo Iacoboni sulla Stampa, a pagina 7, fa un po' la cronistoria, l'Italia del finanziamento e le poche pecore nere contro. Già nel 74 ci tentarono gli eretici, le pecore nere, i disturbatori, che sono sempre stati pochi, pochissimi, da contarli neanche sulle dita di una mano, coloro che vogliono cancellare questi finanziamenti, i vecchi liberali. Ovviamente i radicali, i quattro gatti deputati di Democrazia Proletaria, stop! È da qui che veniamo, già nel 74 con la legge Piccoli il finanziamento fu introdotto, i liberali cercarono di raccogliere le firme per abrogare quella norma, ma nessuno li aiutò, anzi il palazzo li rise in coro. Piccoli profetizzò: state certi, non rinunceremo mai a quei soldi, andò proprio così. Poi nel 78 il referendum voluto dai radicali. Si andò a votare, ma al referendum il 43,6% degli italiani disse no al finanziamento, dunque la consultazione non passò. Oltre ai radicali, nei partiti l'avevano appoggiato solo i liberali. L'MSI, sempre tentato da una linea moralizzatrice di piazza, aveva scelto ipocritamente di dare libertà di voto. Nell'81 i partiti si raddoppiarono pure il finanziamento. Oggi, a sentire le dichiarazioni dei politici, sembrano le dichiarazioni di 30 anni fa, scrive Iacoboni. Sentite Anna Finocchiaro che arringa: non c'è democrazia occidentale che non abbia un meccanismo di finanziamento pubblico. Ma fa sorridere, sono le stesse parole dell'intervista di Citaristi, tesoriere della DC del 87, quando disse: il contributo dello Stato ha portato una certa moralizzazione, contrariamente a quanto si dice, esiste in tutte le democrazie. E allora guardiamoci dunque dall'altra litania, la politica costa. Nel 96 i partiti si inventarono un 4 per 1000 da destinare al sistema politico al momento della denuncia dei redditi. Fu un flop pazzesco. Il geniale Mastella constatò che neanche i deputati l'hanno pagato. Subito dopo però la legge sui rimborsi anticipati passò all'unanimità e i partiti, miracolo, divennero 44. Nel 98, sotto Natale, il partitone Onorevoli Uniti si aumentò i rimborsi e toccò a D'Alema attaccare il becero qualunquismo antiparlamentare. D'Alema, che oggi ripete identiche frasi, e Fini annunciava in diretta TV dalla Camera che AN avrebbe preso i soldi, sì, ma per rifinanziarci il referendum abrogativo. Insomma, retorica, frasi fatte, cattive coscienza e ipocrisia nazionale e trasversale anche in chi non ha mai rubato una lira o diceva qualcosa di parzialmente vero, che la politica è un lavoro nobile. Nessuno però che avvertisse il rischio che l'ultimo finanziamento di solito è il ponte verso la catastrofe, come previde Norberto Bobbio nell'87, quando disse: è incredibile che nel momento in cui il tasso di stima tocca il suo livello più basso, la fame di soldi dei partiti tocchi il punto più alto. E a proposito di finanziamenti, la pagina 7 del Fatto Quotidiano racconta la storia del senador Pallaro. Ve lo ricordate il senador Pallaro? Colui che nella giunta Prodi, nella legislatura Prodi, col suo voto poteva far cambiare da un momento all'altro. Torna dall'Argentina o non torna dall'Argentina? Tutti appesi lì in Parlamento. Torna o non torna dall'Argentina per votare? Perché si giocava sul filo dei voti. Il rimborso ad personam, 1,2 milioni di euro per Pallaro. Avete udito bene. Sandra Murri e Sara Nicoli raccontano a pagina 7 del Fatto Quotidiano la storia di Luigi Pallaro, che con la sua lista, riconducibile in pratica solo a lui, ha ottenuto nel 2006, quando fu votato, un'elezione al Senato che ha fratturato e ha fruttato 64.347.000 euro l'anno. 64.347 euro l'anno, da moltiplicare ovviamente per 5, dunque un totale di 321.735 euro. Questo perché la legislatura è durata 2 anni. Ma che diamine, si pagano per 5 anni. 321.735 euro. Ma lui si presentò anche nel 2006, pur non avendo portato a casa nessun eletto, beneficiò lo stesso dei rimborsi per 63.766 euro, sempre per 5 anni, perché passò l'1% di sbarramento. Dunque non fu eletto, ma i rimborsi si hanno anche per chi ha ottenuto l'1% di voti. Insomma, un totale, e anche per una legislatura nella quale non ha mosso un solo muscolo, per la sua, perché è riconducibile solo a lui, Associazione Italiani Sud America di Pallaro, 1.200.000 euro. Io non so voi, ma domani lo vorrei ospite, vorrei assolutamente parlarci con il senador Luigi Pallaro dall'Argentina. Il traffico. Per il resto, se leggete i giornali, sono tutte inchieste, inchieste trasversali. Allora c'è Belsito, l'ex tesoriere della Lega, che ha restituito i lingotti e i diamanti. Lega, oro e diamanti, così titola con un bel gioco di parole, se volete anche a pagina 4 il Fatto Quotidiano. C'è Formigoni, che ieri poi è andato al Corriere della Sera, l'aveva invitato Ferruccio De Bortoli a dire altro che dare del giornalista sfigato al nostro giornalista che ha fatto un'inchiesta e ha parlato di atti giudiziari che parlano di viaggi pagati a lei, a suo fratello, da parte di Dacco. Questo per questa persona che è stata arrestata nell'ambito di un'inchiesta. Beh, Formigoni è andato al Corriere. Ieri siamo stato anche nervoso in qualche domanda invece di Repubblica, perché lui dice: io posso dimostrare di aver pagato tutti i viaggi. Si fanno così: viaggi di gruppo, uno paga i voli, un altro paga gli hotel, poi alla fine ci si parifica, no? Si smette insieme tutto, chi ha speso di più di meno, si fa il conti della serva e via. Ci si mette a pari. E al che il cronista di Repubblica gli ha chiesto: scusi, lei, presidente Formigoni, sa dare una dimostrazione delle pezze d'appoggio, di pagamenti? Ci può dimostrare che lei ha rimborsato questi viaggi che potrebbe averli pagato Dacco? Scusi, chi è lei? La risposta di Formigoni: che incarico ha per farmi questa domanda? Qui vale la parola del presidente. Questa è stata la risposta di Formigoni, che poi, ancora rabbioso, non ho avuto tempo, comunque la notizia non ha alcuna rilevanza, non dedico attenzione ai giornali scandalistici. In realtà poi Di Dacco l'ha definito Giuda, e lui si è paragonato a Gesù. Anche Gesù ha sbagliato la scelta di qualche collaboratore, ha detto Formigoni, tanto che il Buongiorno di Massimo Gramellini si intitola Anche Gesù ha sbagliato un collaboratore, si difende il Ponzio Pilato della Lombardia. Dopo ponderate riflessioni avrei ravvisato alcune differenze tra il Cristo e il Celeste, uno dei soprannomi di Formigoni. Gesù fu battezzato dal Battista, Formigoni dal Berlusca. La carriera pubblica di Gesù si consumò in 3 anni, quella di Formigoni in regione prosegue imperterrita da 17. Gesù non faceva vacanze di gruppo sugli yacht dei farisei, preferiva i pescherecci, casomai una camminata sulle acque. Quanto al suo tesoriere, Giuda era più economo di Lusi, vabbè, ci vuol poco, più colto di Belsito, vabbè, idem. E a differenza dei Formigonidi, non venne mai raggiunto da avvisi di garanzia. Gesù sapeva bene chi era Giuda, non fu tradito a sua insaputa. In ogni caso avrebbe commesso un errore di valutazione isolato. Formigoni invece di collaboratori ne ha sbagliati parecchi, a cominciare dal sarto daltonico che gli sforna camicie. Per proseguire col cugino depresso di Andy Warhol, che ha ideato quegli spot sul web in cui il Celeste fa lo spadaccino. Sugli altri collaboratori sbagliati preferirei tacere, avendo già parlato la magistratura. Aggiungo solo che la cifra del tradimento di Giuda, 30 denari, anche al netto dell'inflazione, risulta di gran lunga inferiore a quelle che danzano nel cielo sopra Milano per sfamare gli appetiti dei notabili e delle lobby che li sostengono. Lobby? Ho detto lobby? Scusate, mi ero scordato che grazie al finanziamento pubblico dei partiti viaggiano lontane anni luce dal mondo della politica. Così Massimo Gramellini. Le tasse. Il Sole 24 Ore oggi torna sulla questione delle tasse. IMU, prima casa, le rate a scelta, questa è la novità. I contribuenti potranno decidere se pagare 2 o 3 rate. Tutti i dettagli sul Sole li trovate a pagina 8. Contro questo comunque tuona Claudio Siciliotti, il presidente dei commercialisti, in un'intervista all'Unità, intervistato da Bianca Di Giovanni, dice all'Unità Siciliotti: se questo è l'obiettivo si è raggiunto il risultato contrario, famiglie vessate, se voglio aiutare qualcuno faccio pagare più tardi, oggi invece ci ritroviamo che a settembre avremo pagato i 2/3 anziché la metà, mi auguro che qualcuno si renda conto di questo. Beh, intanto però a giugno si paga meno, chiede Bianca Di Giovanni. Sì, e dopo 2 mesi si deve tornare a pagare. Nel frattempo non mi pare ci si stia interessando alle famiglie che hanno figli portatori di handicap, con età superiore ai 26 anni, i quali vivono in casa non perché sono bamboccioni, oppure degli anziani che vivono in case di riposo, dovranno versare l'IMU sulla propria casa come se fosse la seconda. Questa effettivamente è rimasta, eh? Dovranno versare tutti gli anziani che hanno una prima casa, ma sono in residenze sanitarie assistite, dovranno pagare l'IMU come se fosse la seconda casa. Ma è una cosa incredibile questa, è rimasta questa cosa. Ma che è? Non ci volevo credere, e invece è rimasta così. Ma d'altronde ho sentito che arriva dal nostro Vincenzo Miletta la tassa sui cartelli esposti sulle gru nei cantieri. E ragazzi, ci si deve anche arrangiare per trovare delle, no? Delle tasse del genere. La tassa sui cartelli esposti sulle gru dei cantieri. Saranno pubblicità, vabbè, ho capito, però vabbè. Noi, giusto per chiudere, parleremo di Breivik alle 8:30, dopo aver avuto Rosy Bindi, presidente del Partito Democratico. Parleremo di Breivik, quest'uomo che ha ucciso 77 persone, continua nel suo delirio al processo. Ieri ha detto: ho ucciso dei marxisti, ne avrei uccisi di più, ho fatto l'attacco più spettacolare della storia del dopoguerra. E noi siamo condannati, la nostra civiltà, la nostra democrazia ce lo impone, ad ascoltare le sue follie. Che ne pensate? Di questo ne parleremo dopo, ora al giornale radio.